Oggi di che colore sei? O meglio, quale scosterai? Ti scopriremo insieme su i colori dell'anima. E iniziamo la prima puntata di primavera nel delirio più totale. 23 marzo 2015, direi, è lunedì, come sempre. I colori dell'anima sono in diretta dalle 21 alle 22 con o senza regia funzionante, però fin quando abbiamo tre microfoni noi la trasmissione la facciamo. Alla mia destra, alla regia, inferrocito con un diavolo per capello, Angelo Gregorio. Non ho potuto fare la mia barzelletta di entrata. Buonasera. Vabbè, a tutti. Ti rifarai. Abbiamo rovinato il mood per tutte le barzellette per tutta la puntata, no? Riprenditi, Angelo. Cecilia, la mia sinistra, è in forma, ragazzi. Stasera non ve lo dico, un nuovo taglio di capello, colpo di sole e colpo di testa. Eh sì, peccato che non ci possano vedere, non siamo in televisione. Vabbè, più tardi faremo pervenire una foto. E in compagnia, in nostra compagnia, stasera c'è un ospite che presenteremo tra qualche minuto, perché voi sapete, i nostri radioascoltatori sanno che a noi piace la suspense. Ed è per questo che non siamo partiti subito con la sigla, perché ci piace la suspense. Ma come sempre noi vi preannunciamo un pochettino di cosa parleremo stasera. E questa sera parleremo un po' di Italia vista al contrario, no? Con una prospettiva diversa, forse, no? Mm-hmm. Quindi non sono solo gli italiani che emigrano e cercano altro, ma qualche volta anche qualche straniero scende nei meandri del sud dell'Italia e addirittura a Napoli, a Portici, tra l'altro, passando poi per il Lazio, per Perugia, per il Molise, insomma un bel giretto. E facendo qui due chiacchiere prima della trasmissione ci siamo resi conto che ha parecchie cose da raccontarci e anche da insegnarci. È stato in luoghi che io a 30 chilometri non ho mai visto, quindi ce ne sono di cose da ascoltare stasera. E se Angelo è pronta alla regia, con una magica regia stasera più efficiente che mai, possiamo pian piano passare all'ascolto di un brano. Ed ecco il primo brano della serata, Jerry Mulligan, Reunion. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ben ritrovati sui colori dell'anima. Abbiamo finalmente sentito la sigla, che mi sembra un grande improvement dall'inizio della puntata. Carla, non abbiamo dato i contatti, se qualcuno ci vuole scrivere, contattare. Verissimo. Allora, rimediamo subito, se volete scriverci sulla pagina Angelo e Carla On Air. Io risulto ancora come Giampaolo. Il numero di telefono, se ci volete telefonare, dal Belgio è 02 345 26 56, mentre invece dall'Italia 00 32 2 345 26 56. Sono pronta per le pagine gialle. Aspettiamo domande, lo dobbiamo assalire di domande, di telefonate, questo ragazzo che ha proprio parecchie cose da dire. Presentiamolo davanti a me, il bellissimo, affascinantissimo, qualche altro eccelso, come si dice, quelli dei presi dell'università, magnifico. Ruben Vermeeren, direttamente dalla provincia di Utrecht. Giusto? Giustissimo, grazie per questa introduzione. Magnifico, infatti, è il mio nome che mi danno sempre, sì. Magnifico. Sono un po' abituato. È modesto questo, È modestissimo. E faremo pervenire anche qui una foto. E quindi, dalla provincia di Utrecht, esattamente, da un paesino che si chiama? Houten. Che nessuno conosce, giustamente, perché non c'è. Però stasera almeno noi tre conosciamo Houten. Sì, però poi non c'è molto da dire su Houten, questo è più o meno. Ed è per questo che hai deciso di fare un pazzo viaggio. Infatti sì, me ne volevo andare più presto possibile, la prima occasione l'ho colta e me ne sono andato. E nel lontano 2000, sì, infatti. 2000. Sì, 15 okay. anni fa, ammazza. Wow. Sì. Eri un bebè. Come passa il tempo? Sì. Dai, raccontaci come hai preso questa decisione. Guarda che... E di andare dove? Perché non abbiamo ancora detto dove sei andato. Io sono andato a Napoli, ho fatto un anno di volontariato lì. Praticamente me l'aveva suggerito mia madre, perché io dopo la scuola superiore, si chiama high school, non sapevo che cosa andare a studiare. Quindi avevi 18 anni. 18 anni avevo appena compiuti. Mia madre ha detto: perché non ti prendi un anno per pensare, fai qualcosa di bello all'estero, cerca di fare un volontariato. E soprattutto qui, vai a Napoli, Ruben. Quella non l'ha detto perché lei non c'è mai stata. Sì, poi l'amore per Napoli è venuto poi dopo. Ma hai scelto una città a caso? Hai preso una no, come si chiamano? In realtà io c'ero già stato, perché noi con la chiesa dei miei che sono pastori? No, non è la loro chiesa, scusami l'italiano, ma la chiesa che frequentano loro. Io ero andato con un gruppo di giovani un'estate, 2 anni prima, a Napoli per fare dei lavori, sempre volontariato, a una casa famiglia, una scuola materna, mm-hmm. dove dovevamo imbiancare i pareti della scuola. E come diciamolo progetto. Magari per alcune persone che sono all'ascolto e magari non conoscono cos'è una casa famiglia. Cioè, vuol dire, era un palazzo bellissimo al mare, si vedeva Capri. A Portici, sì, un chilometro al sud di Napoli, però non si rende conto non si lascia mai che la poi, città. Poi tra l'altro invece... è molto vicino a Capri, effettivamente, come tu dici, perché Capri sta leggermente più giù. E infatti sì, si vedeva tutte le sere. Differentemente da Ischia, ma sì, diamo delle immagini, così i nostri radioascoltatori che non ci sentono possono sognare, vedono con noi. Guarda, questo era un palazzo rosa. di un principe di Monaco che aveva lasciato il palazzo, non so direttamente alla chiesa mm-hmm. napoletana, però che comunque era nelle mani di quella chiesa che aveva delle relazioni con la nostra. Un palazzo stupendo, tutto rinnovato, un bel gran giardino con delle statue da Pompei che erano scavate lì. Rinchiuso, tipo un piccolo paradiso, palme, mm-hmm. e si vedeva il sole che scendeva tutte le sere su Capri, okay. colori del cielo fantastici. Abbiamo visto, siamo lì, con gli occhi, col cuore. Sì. Però a me farebbe piacere precisare che tu non è che sei andato nel villaggio vacanze della Casa Rosa col giardino, ma la casa famiglia è comunque un posto impegnativo perché... diciamo in seguito alla non so che legge che c'è stata a un certo punto, piano piano sono stati eliminati gli orfanotrofi, hanno cercato di ricreare degli ambienti un po' più familiari che appunto riproducono la famiglia, quindi con dei bambini che per un motivo o l'altro sono stati tolti dalla tutela dei genitori, e se non sbaglio devono essere massimo 7, tu mi dicevi che erano 5. Sì, c'erano 5-6, non direi bambini, giovani, adolescenti, 12 no? e 18 anni, pre-adolescenti. Che avevano vissuto già abbastanza, più che io, infatti, che ero cresciuto molto protetto in una famiglia, in un piccolo paese. Quindi ti sei confrontato con una realtà napoletana in più. Poi io non parlavo la lingua, quindi non potevo aiutarli oltre che magari preparare il caffè. Ma io lavoravo in realtà più per la scuola, perché c'era anche una scuola che era accanto, che dovevo andare a prendere i bambini la mattina e riportarli a casa la sera, il pomeriggio, mm-hmm. e poi lavoravo nel giardino del giardino enorme che era lì a spazzare sempre i fogli. Ma però bellissimo come esperienza. Una cosa che mi farebbe piacere dire è che magari uno dice: vabbè, questo faceva il caffè, spazzava, li accompagnava, però anche per esempio in tantissimi centri diurni dove nell'ambito della psichiatria qua, la persona che ha anche semplicemente una presenza, che è lì, che passa, che fa delle cose, spessissimo è il primo osservatore, il primo che fa clinica, è il primo al quale magari il bambino si rivolge perché ha meno paura. Quindi c'è tutto un lavoro che tu hai fatto non essendo neanche consapevole sicuramente di... Non parli la lingua, sei diverso, quindi scherzano con te, ti prendono in giro. È un'altra relazione, però è una relazione importante, non è solo quella di appunto fare il caffè. Almeno qualcosa da ridere avevano, esatto. Per me, per tutti questi stranieri, perché eravamo 5-10. Mm-hmm. No, io volevo chiederti... Oddio. È partito il microfono. Ça se fait pas, hein? Je sais pas moi. Je sais, no? E no, volevo chiederti com'è stata l'esperienza di guidare per un olandese a Napoli. Sì, perché cioè, come, perché poi tu eri giovane. Anni, non avevi la appena patente. Ah, non l'avevi? No, io l'ho fatta a Napoli, infatti. Perché avevo capito che costava molto di meno rispetto all'Olanda. E qui il sangue olandese. È inutile questa esperienza. E io in Olanda è molto diverso, perché in Olanda la cosa importante è la pratica, quindi si studia a casa, si fa ad un certo punto quando si sente pronti, si fa l'esame di teoria e poi comincia una lunga serie di lezioni, tipo 50-60 mia madre per esempio. A Napoli era completamente l'opposto, la teoria si faceva tutte le sere, quindi i giovani avevano la loro vita sociale lì, trovavano gli amici lì. Ogni sera un'ora, si parlava per esempio un'ora, mi ricordo, del casco, che per me è chiaro, no? si mette, appunto, basta. Non si mette, parli un'ora del casco e poi non lo metti. E perché lo casco? E quindi io ad un certo punto, erano 2 mesi dalla mia partenza da Napoli, ho detto al signore: senta, io vorrei fare l'esame cominciare con la pratica, perché io me ne devo partire, devo ritornare in Olanda. Ho detto: vabbè, se ti senti pronto per la teoria, facciamola. E quindi la teoria è passata, perché avevo memorizzato proprio tutto il libro. Io ancora non parlavo l'italiano, ma tutti i termini li avevo quindi memorizzato. Magari adesso sai le trombe bitonali, ecco, ma annabalianti, parabrezzo, sì, tutto quanto. Sono dei termini che si usano nella vita di tutti i giorni. Certo, le trombe bitonali, voglio dire, ti lasciano un segno. I catadiottri. Quelli non conosco, che sono? Non lo so. Non lo sa nessuno. Credo che non lo sappia nemmeno Angelo. Siano i fare i catari frangenti. Ah, quelli sono. Sì. Sempre chiamati catari frangenti. Comunque poi ho fatto 2 lezioni di guida. Io non sapevo guidare, perché non avevo ovviamente mai guidato. Come si chiama il signore che della scuola guida, mi ha detto: ma tu non sai guidare, ma domani hai l'esame, ti rendi conto? Meglio che stasera studi un po' a casa. Ho detto: vabbè. Ma qui la pratica? La pratica, 2 lezioni e poi dovevo fare l'esame. Ma gli altri sapevano, cioè tu, nel senso, com'era? Nel senso, il resto degli studenti che erano con te al corso sapevano già guidare, li facevano? Mi sa di sì. C'era uno che ha ammesso di guidare da quando aveva 11 anni, quindi si faceva, apparentemente. Non l'ho mai visto, però sì. Magie italiane. Ma questo è sempre a Portici o...? Questo è sempre a Portici, cioè stava un po' più lontano, un po' più al nord, quindi, o al sud, sì, quindi più vicino a Napoli, si chiamava San Giovanni a Teduccio, mi sembra, il paese, sì. E poi ho superato l'esame, per miracolo. Mannaggia, volevo lasciare la suspense, l'avevi superato o meno, lanciando la prossima canzone dei Tiro Mancino, scelta da Ruben, La descrizione di un attimo. Due mucche svizzere chiacchierano fra loro mentre brucano l'erba. Meh. Io ho una zia in India ed è sacra. Meh. Ribatte l'altra. Io ho una zia in Inghilterra ed è pazza. Il deserto del Sahara è in Africa e su questo non ci piove. Oggi di che colore sei? O meglio, quale indosserai? Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Bentornati su Radio Alma, dove c'è stata una freddura che ha fatto calare il gelo sul deserto del Sahara in Africa. Siamo qui in compagnia di Ruben, che ci stava raccontando fino a poco tempo fa, insomma fino a poco prima della pausa musicale, del suo esame di come ha preso la patente a Napoli, di come uno straniero è riuscito a prendere la patente a Napoli, ma c'è un ultimo aneddoto, perché ci hai detto prima dell'interruzione musicale che hai fatto l'esame dopo aver fatto due lezioni di guida. Una paura, ero nervosissimo, non ce la facevo. E poi ci hai detto adesso, mentre sentivamo la musica, ci hai detto che la patente poi l'hai presa. Sì. Possiamo svelare a chi ci sta ascoltando che cosa c'era dietro questa... Guarda, si era sorpreso anche l'esaminatore, si chiama così? Sì. Perché lui pensava che io sapessi guidare, e invece non sapevo guidare, quindi ho fatto anche un mezzo incidente quando ho toccato un bidone che stava per strada. Lui ha scoppiato di ridere e mi ha dato la patente, perché lui l'aveva già preparato, perché Napoli era una delle prime città, penso, perché in Olanda è arrivato solo qualche anno dopo, aveva già fatto le tessere, quindi prima la patente di guida era un foglio rosa, grande, e lui era talmente fiero, diciamo, orgoglioso di essere così moderno, che la patente era infatti una tessera con la mia foto dentro, che me l'ha dato così perché l'aveva già preparata. Io ero quindi tu contentissimo. Hai avuto la patente prima di aver fatto l'esame? No, questo era durante l'esame. L'esame è durato tipo 4-5 minuti, non di più. Fantastico. Cioè, chi stai o sterzi, no? Là sta la chiave, tu giri un coso, poi roppa vai sempre a dritto, se vai in fronte a muri, smaron aiuto. È così, ha parlato da fiume. Ma... mi è sembrato di sentire... Di vedere un gatto! Miau! Mi è sembrato di capire che a un certo punto avevi imparato il dialetto napoletano. No, io capisco ancora quello che dice Angelo adesso, ma non parlo più così, perché poi, quando sono tornato in Olanda, avevo finalmente deciso di che cosa volevo studiare, la lingua italiana, infatti. I miei professori all'università di Groninga si sono spaventati, perché hanno detto che questo accento che ha lui deve parlare il toscano proprio, che parliamo tutti noi. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Così. E quindi ho perso man mano l'accento napoletano. Però a richiesta lo puoi... No, non ce la faccio. Accento napoletano. Certo che fa un effetto essendo olandese che parla napoletano, soprattutto perché se poi lo dovessi chiedere a me, io non saprei assolutamente. No, lo fai molto meglio di me. No, confermo la versione di... Ma soprattutto perché io non lo capisco, quindi quello che Angelo dice io non lo capisco. Abbiamo fatto una puntata su Pino Daniele purtroppo ci ha lasciato a gennaio. E sì, abbiamo fatto passare della musica di Pino Daniele, abbiamo detto delle cose, e c'era Cecilia stranita che non... Io ero tipo un pesce sul banco del mercato, no? Quando c'hanno quegli occhi tipo vitrei che stanno tipo... Mi diceva, che cosa hai capito? Nulla. Quindi vabbè, dobbiamo rivangare il passato. Quindi faremo una nuova puntata su Pino Daniele in cui ti inviteremo. Sì. Ma colgo l'occasione per chiederti se hai avuto modo di ascoltare Pino Daniele, se ti piaceva qualcosa. Non live, però si sente dappertutto. In quell'epoca, questo è l'anno 2000-2001, c'era uno, Gigi D'Alessio mi sa che si chiama. C'è ancora in giro. Ti rassicuro. Fantastico, che... perché io ho imparato così l'italiano, con le canzoni che era... Che cantava a quell'epoca? Anna Re, penso, no? Era Anna Re. No, c'era una canzone di... Non digli mai. No, un ragazzo che era stato nella guerra e poi è tornato a casa e sperava di trovare la sua fidanzata pronta per fare l'amore. E io pensavo, ma che cos'è questa canzone? È terribile, non si canta. Sì, non lo so. Ma era quando cantava ancora in dialetto o era passato già all'italiano? No, questo era italiano, però sempre con questa... Io chiamo questo suono arabo, perché praticamente sono influenza araba, no? Per uno che ascolta per la prima volta, quello ce l'aveva già. Mm-hmm. Ma mi sa che la lingua era italiana, sì. Ok, perché c'ha avuto tutta una fase, diciamo, di proprio napoletano intenso e poi si è convertito, diciamo... No, lui era già mainstream, diciamo. Ok. Sì. Quindi la patente, la casa famiglia, la scuola, che altro facevi a Napoli? Guarda, approfittavamo di vedere un po' i dintorni. Che cosa bellissima città. Cosa hai visto? Cosa hai avuto l'opportunità di vedere? Ma in un anno, tutti i weekend che ci sono, facevamo qualcosa. E avevamo una guida della città. In città ci sono tantissime cose belle. Il Cristo velato l'hai visto? Io ancora non sono riuscita a vederlo. Ma devo pensare che... Chiesa del Gesù, al centro storico. Mi ricordo San Gennaro. San Gennaro. Sempre lì. I presepi. Certo. San Gregorio Armeno. Sì. I presepi. Così, no? Sì. Come si chiama? Mithras, la religione di Mithras, c'è una bellissima... Mm-hmm. Un bellissimo posto che mi ricordo di un santuario suo, cioè la religione che era Napoli prima del cristianesimo, sì. Dove è stato sepolto Virgilio. Si trova lì in su verso Gomez. Sto prendendo appunti. C'è veramente tanto. La guida secondo Ruben. Monte Faito e poi tutti i dintorni, il Vesuvio, Capri ovviamente, tante volte. Ischia. Sì, Ischia un po' meno, però sempre bello. No, ma ci sei stato anche lì. Sì, Procida. Insomma, lui è stato ovunque. E sei stato a Caserta? Sì, perché ecco. Lì c'è il Versailles dell'Italia. Certo. Sì. Però non era in gran forma quando io c'ero. Graffiti, un po' gloria passata. Mm-hmm. Se si dice così. Caserta Vecchia? Non me ne ricordo bene, no. Guarda, sono tanti anni fa. Poi dalla campagna c'è stato... solo la nebbia. Lui così si sfoga, lui arriva qua e c'è un mese tra una puntata e l'altra e lui in quest'ora che passa tra un mese e l'altro sfoga tutta l'emozione. Devi sapere Ruben che queste puntate sono spesso un derby casalingo tra la regia salernitana e qui la voce casertana, quindi se si può si punzecchiano, quindi però c'è pure Napoli. C'è il vetro che ci separa, quindi anche volendo tirarci appresso qualcosa. Ho sentito che c'è un po' di terapia in corso matrimoniale. Ed è per questo che ogni tanto invitiamo Francesco, marito di Cecilia, così diciamo. Così ci possiamo appiccicare tutti quanti. Ma da Napoli pian piano ti sei trasferito più tardi, quindi sei ripassato per l'Olanda e sei risceso e sei andato a Roma. Sì, no, poi ho cercato di essere in Italia tutte le estati, quindi ho sempre trovato qualcosa. Ho fatto un mese di una scuola estiva a Reggio Calabria e poi ho lavorato tre estati, facevo... Qualche lavoretto per un festival di film in Basilicata. Ed erano film di produzioni... Erano cortometraggi. Cortometraggi, sì, abbastanza sperimentali. Tra l'altro... Un po' troppo sperimentali per la popolazione del sud. Se non erro è proprio partito qui a Bruxelles il festival dei cortometraggi per 2 settimane. Se non erro è cominciato proprio oggi, domani, dopodomani, ci sarà per 2 settimane, quindi cogliamo l'occasione per ricordare ai nostri ascoltatori che sono qui a Bruxelles di questo festival. Ma il festival del cortometraggio in Basilicata, dall'Olanda, come l'hai pescato? Cioè perché, voglio dire, io... Sono italiana, ok, non ne ho mai nemmeno sentito parlare, non so voi che magari siete un po' più giù, ma io non ne ho mai sentito parlare. Per cui mi chiedo come un olandese ha trovato come occasione di lavoro estivo un festival di cortometraggi. No, guarda, studiando l'italiano, io l'ho studiato solo per un anno, ho fatto un anno propedeutico, poi ho scelto un altro studio, ma essendo studente ti arrivano queste possibilità, no? Questi messaggi. E questo era un giornalista che lavorava a Roma, che non so se aveva un grande successo, ma almeno faceva capire che era un giornalista di un certo successo. Lui era del sud della Basilicata, di Novaziri per essere precisi, e lui voleva capire la popolazione locale, che era infatti uno con un sacco di successo e con tante relazioni internazionali, e per quello lui ha chiesto che poteva essere accompagnato da studenti, preferibilmente di film, ma gli studenti di film che sono venuti non parlavano l'italiano e quindi c'era bisogno anche di qualche studente di lingua italiana. E io l'ho fatto volentieri. I film non erano sempre di enorme qualità, però era bello come esperienza. Vabbè, come in tutti i festival ci sono i film meno belli, più belli, insomma. Vabbè. Però adesso passiamo la linea ad Angelo, che ci passerà una canzone piuttosto bella, degli anni appunto del 2000, Luna Pop 50 Special. Le due mie figlie hanno sposato due salumieri. Ho due generi alimentari. Oggi di che colore sei? O meglio, quale indosserai? Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E bentornati su I colori dell'anima. Siamo Cecilia con Carla e il jolly, cioè, Angelo. Cecilia che ha crisi d'identità. io come mi chiamo? No, perché io sto cercando di trattenere la risata per far passare ad Angelo il messaggio che certe freddure sono pessime, ma mi fanno ridere. Comunque siamo di nuovo in onda, stiamo sopravvivendo a questo lunedì sera, il primo, la nostra prima puntata primaverile con questo caldo che Bruxelles ci regala, e siamo in compagnia di Ruben, che ci stava raccontando tutte le sue vicende, vicissitudini italiane, un olandese che si è ritrovato un po' catapultato nella realtà napoletana prima e che poi insomma ha girovagato, abbiamo scoperto, anche in Festival del Cortometraggio in Basilicata. Cinema da mare, andateci, esiste ancora, è un grande successo in Basilicata. Cinema da mare, cinema e c'è da tutte mare, le estati al mare, sì, e gira da un paesino all'altro. Ed è che periodo? Agosto, luglio? Agosto. Sì, tutto il mese di agosto, e diventa sempre più lungo, è una sofferenza incredibile, perché dura settimane e settimane, non finisce mai. I registi aumentano, si capisce cos'è. I registi aumentano, vogliono spazio Sì. Quindi... Ma eravamo collocati a Roma, o non ancora, passando dalla... Sì, a un certo punto eravamo arrivati a Roma. C'è questa bellissima cosa del ministro degli esteri italiano, che almeno in Olanda dà due borsi di studio. Io ne avevo sentito, non studiavo più l'italiano, però avevo sempre questo desiderio di andare, forse per restare, e quindi ho fatto domanda, perché c'era questo master alla Sapienza di geopolitica. Io all'epoca studiavo relazioni internazionali e quindi ho vinto questa borsa di studio e ho potuto studiare un anno a Roma. Fantastico, si facevano lezioni. Dovreste vedere la faccia di Ruben. Sì, si è trasformata, è un sogno, no? Per uno che sì, è tutto quello che volevo. Quindi studiavo la sera, c'era un'ora al giorno di lezione, e poi tutto il resto del giorno avevo tempo libero. Un'ora al giorno? Sì. All'università dei sogni. E non c'erano libri. Fantastico. C'era un professore, non mi ricordo neanche il nome, però aveva all'intorno degli 85 anni. Ci diceva solo: dovete leggere il Washington Post e Frankfurter Allgemeine. Se non siete disposti a leggere questi giornali di qualità, non meritate di venire alla mia lezione. Quindi io leggevo questi due giornali tutti i giorni e basta. Questo era il light. Master è stato un master light. Sì, abbastanza light. Sì. Infatti ho lavorato la più parte del mio tempo nella villa borghese, dove c'era l'istituto di cultura olandese, dove c'è ancora, mi sa. Sì. E facevi? C'era una collezione che loro avevano comprato di fotografie di due fratelli, adesso mi sfugge il nome dei fratelli, però loro avevano fatto foto di Roma negli anni 80 del secolo 900, del 1880-1890. C'era una spaghetteria nel Colosseo, per esempio, non sapevo, ma si vedeva su quelle foto, quindi foto bellissime. Di una Roma di più di 100 anni tempi. Fa. Sì. Ed hai fatto conoscenze, hai conosciuto italiani, non italiani. Sì, certo, a Roma, poi anche a Perugia ho vissuto insieme a degli italiani. Sì, così conosci un po' il modo di vivere di ragazzi che lasciano casa e che devono sopravvivere da soli. E a Perugia sei arrivato? Me lo sono perso, l'abbiamo già fatto. Ah, a Perugia, sì, perché siamo saltati a Roma. Di italiano. No, a Perugia ho fatto un tirocinio, tipo uno stage ad un co-diretti, quindi per prodotti tipici umbri. Che sarà stato un sogno, funghi. È il sogno di chiunque. Buoni, sì. Funghi, tartufi. Sono andato anche con dei cani a trovare i tartufi, fantastico. Questo sì che è un sogno. Sì, dopo il terremoto vicino a Nocera Umbra c'erano boschi dove si trovavano questi tartufi. Senti Ruben, secondo me tu te l'aspettavi, però il momento è arrivato. Il colore? Non ancora. Ah, devo ancora inventare il colore. La domanda nasce spontanea ed è: che cosa ne hai pensato in fondo di questa esperienza? Che cosa ti ha fatto poi alla fine chiudere questa parentesi della tua vita? E che cosa puoi dire a noi italiani del tuo modo di esserti integrato, di come l'hai percepita? Non lo so, è una domanda forse banale, però veramente ci interessa il tuo punto di vista. Ma per me l'Italia è sempre il paese più bello del mondo, è solo che io, quello che ho scoperto è che io sono troppo olandese, sono molto olandese, molto più di quanto pensavo. Io pensavo di essere uno che doveva lasciare subito l'Olanda per vivere nel Mediterraneo, ma io non sono fatto per lavorare in Italia. Che cos'è essere olandese? Io sono impaziente, voglio risultati subito, non voglio, anche se non sembra oggi così, ma non voglio chiacchierare troppo, io voglio andare subito al punto al centro del dibattito. E lì questo modo di essere non va bene. Cioè, ma dai, Italia, ed è quindi per quello che sei venuto in Belgio. L'organizzazione. Devo dire che non è facile per me qui in Belgio, no. E come mai non in Olanda a questo punto? Ma mi sa, forse anche così in Olanda, ma non in Olanda va tutto un po' più veloce. Siamo un po' più tedeschi, forse un po' più rigidi, freddi, come direte voi. Ah, un olandese che dice siamo tedeschi. Siamo più tedeschi. Sì, è così. Beh, siete più organizzati sicuramente. Sì, vabbè, non dico che è una cosa buona, è così. E non lo so, più in generale, al di là del fatto che quindi questa parentesi l'hai chiusa, che cosa ti rimarrà di Napoli, di Roma, di Perugia? Ma io ha fatto me come sono, io sono quello che sono perché ho fatto tutte queste esperienze, sono state bellissime. E a quanto pare sei un ottimo cuoco, mi hanno detto. Cecilia l'ha detto? Grazie Gigi. Sì. Beh, l'ho detto mentre stavamo venendo in macchina, ho detto tra l'altro Ruben è un bravissimo cuoco perché è un innamorato della cucina italiana. Perché... ma se mi chiedi che cosa ti è rimasto, la cucina è una delle cose più importanti perché lì ho scoperto tutti i sapori. Io mangiavo tutte le sere patate, un pezzettino di carne e delle verdure lessate per 30-40 minuti finché non c'era più gusto. E a Napoli è aperto questo mondo. Verdure disintegrate. Sì. Senti... Ruben, mi sembra di aver capito che ti piace la margherita. È la mia pizza preferita, sì. Ma è anche il nome di una canzone, Margherita di Marco Borsato. Cartello davanti alla sala del convegno della Banca del Seme. Innanzitutto, grazie di essere venuti. Bentornati ai colori dell'anima, ci stiamo tutti asciugando le lacrime dopo questo momento commovente. Che cos'era che abbiamo sentito, Ruben? Perché intanto, non appena la canzone è partita, Ruben ha subito voluto precisare: questa non è la mia canzone preferita. La pizza margherita mi piace, ma questa canzone non è la mia preferita. Ci puoi dire chi è questo Marco Borsato? È un cantante olandese? Olandese. Mezzo olandese, mezzo italiano. Voi avete capito subito, tutti gli ascoltatori italiani, suppongo avete capito che questa è Margherita di Riccardo Cocciante, ma in Olanda il cantante in assoluto più venduto della storia di sempre e più grande è Marco Borsato, e questo Marco Borsato che è infatti è diventato famoso negli anni, inizio anni 90, in uno show di talenti, lui l'ha vinto e poi io avevo scoperto abbastanza veloce che lui stava copiava le canzoni di Cocciante, quasi tutte. Non le copia, le traduce. Erano cover, reprise, sì, no? Le traduce cover. In olandese. Sì, non le traduce, no, i testi non sono neanche, peggio, non sono neanche male. Però sì, è anche una bella voce, ma non sono le sue canzoni, lui è un po', lui è diventato famoso, anzi famosissimo. Lui lo dice che non sono sue. No, non lo dice, poi dopo 10 anni ha fatto anche dei concerti insieme a Cocciante, ah. E quindi no, è tutto chiaro, però all'inizio il popolo olandese non sapeva, pensava che questo era uno brillante che scriveva queste bellissime canzoni. È un benissimo, fake. Ci restano solo 3 minuti perché dobbiamo staccare a 57, quindi colore e summit della puntata di oggi. Il momento è arrivato, Ruben, qual è il tuo colore il per colore. Questa serata? Può essere solo l'arancione, perché io sono l'arancione. The orange. In fondo è rimasto olandese, ci abbiamo provato. Ma sono diventato più olandese. Più olandese. Sì, sì. Vivendo all'estero, forse anche voi vi siete più italiani adesso che prima in Italia. Io mi sento più olandese. Ah, ma pas-moi? No. Ma dipende, Ceci. Dipende. C'è una grande solidarietà tra persone della stessa nazionalità, però rispetto ad alcuni discorsi. Ci si differenzia un pochettino, si inizia a mangiare anche cucina orientale, cosa che l'italiano medio magari disdegna, però sì, c'è una grande solidarietà tra noi italiani, siamo molto uniti, ci identifichiamo veramente tanto con la nostra nazione, però come hai detto tu, sei quello che sei anche grazie a queste esperienze che hai fatto. Esatto. E insomma, Capri non l'hanno mica vista tutti. Io no, aspetto che ancora che mio marito mi ci porti. Quindi, appello, lancio questo messaggio via radio. SOS. Gliel'ho già detto più volte, credo un'altra volta anche dalla radio. Dalla radio funziona meglio. E abbiamo Francesco al telefono. No, ah, no, okay. Non credo. Speravo. Non credo. Sì, Cecilia, non preoccuparti, ti ci porterò. Oh, ma non me l'hai mai detto. Te lo dico adesso. Esatto, bene, ecco, quindi grazie Francesco per il collegamento, per questa benissimo. Conversazione benissimo. Benissimo. Un ultimo saluto ai nostri radioascoltatori. Appuntamento all'ultimo lunedì del mese di aprile. Quindi buona Pasqua, perché non ci sentiremo prima. E un abbraccio a tutti da Carla, anche da Cecilia e da Ruben. Ciao ciao. Grazie di essere stato con ciao, noi stasera. Ciao. Ma io mi domando, ma che faccia avrà fatto la montagna? No, ma che faccia avrà fatto Maometto quando la montagna ha bussato alla porta?